La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:36 primi 43 secondi, siamo qua in diretta, Oscar Giannino vi saluta, la versione di Oscar, grazie a chi ci scarica in podcast. Oggi è un giorno di quelli da segnare sul calendario, almeno per chi ha un occhio attento alla crisi che colpisce noi, che colpisce i paesi più eurodeboli, e invece a chi è più forte in Europa. Perché è un sogno e un giorno da segnare sul calendario? Perché la Commissione europea stamattina ha, come non avveniva da tempo immemore, lanciato un'indagine per verificare, regole europee alla mano, se per caso non sia il caso di incardinare una procedura di infrazione, questa volta non nei confronti dei paesi eurodeboli che hanno il deficit oltre il 3%, il debito pubblico che sale, non nei confronti dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Grecia, no, una procedura di infrazione nei confronti eventualmente del paese leader, della locomotiva, dei tedeschi, della patria della virtù. Perché? Perché anche se, a mio giudizio, incomprensibilmente, per anni la politica europea è stata muta, e non trovate dichiarazioni di politici italiani, francesi, spagnoli, cioè dei paesi che più hanno subito il morso, no, del rientro obbligato di finanza pubblica in questi anni, una regola europea che fa parte del set di norme europee in attuazione di un articolo del trattato 121.2, in questi anni è stata, apparentemente i numeri dicono così, sistematicamente violata dalla virtuosissima Germania. Ed è una norma che stabilisce i limiti al deficit o all'eccesso di avanzo di una cosa un po' particolare, che magari ad alcuni di voi in ascolto non è ben chiaro cosa voglia dire. Stiamo parlando dei limiti o di deficit o di avanzo o della parte corrente della bilancia dei pagamenti. Per capirci, sia pur tecnicamente con qualche approssimazione, la parte corrente della bilancia dei pagamenti è quella che mette insieme il saldo totale di importazioni e esportazioni di un paese, cioè la sua forza commerciale, se cresce più importando che esportando, poi il saldo di flussi di capitale che derivano da redditi, pensioni, rimesse, e una parte ancora di redditi finanziari che vengono dal rientro o liquidazione dell'equivalente di asset detenuti all'estero. Quindi approssimazione per approssimazione è un indicatore abbastanza significativo, molto fedele, della posizione netta di un paese sull'estero. Se un paese cioè cresce o non cresce a debito, oppure cresce o non cresce perché è mercantilista, perché è molto bravo a esportare, per così dire. La Germania è questa seconda cosa, perché da anni, dal 2007, è andata oltre il limite previsto dalle norme europee di surplus, di avanzo della parte corrente della bilancia dei pagamenti, cioè è stata dal 2007 in avanti sempre sopra il 6% di PIL ogni anno, grazie a una serie di fattori, innanzitutto la forza delle sue esportazioni, ma non solo questo, anche l'afflusso di capitali. Finalmente siamo arrivati al punto in cui si scopre che questa norma europea, bisogna vedere se e come verificare se davvero non è stata rispettata, pare di sì, e se adottare o meno sanzioni. La Commissione europea, ha spiegato Barroso stamattina, ci metterà mesi per approfondire, se ne parlerà a fine primavera, estate prossima. Perché, direte voi, i tedeschi subito hanno reagito dicendo: ma noi siamo forti con il nostro export, abbiamo fatto le riforme di produttività, la competitività, tutto vero, però il problema è che ha un rilievo sistematico per tutti i paesi eurodeboli l'eccesso di crescita fatto solo esportando, perché innanzitutto significa che loro comprimentano la loro domanda interna con i salari e così via, che ha una cosa di virtù sulla produttività, significa che c'è meno spazio nella domanda interna per le nostre esportazioni, di cui avremo dannatamente bisogno all'interno dell'euroarea, esattamente in Germania, dove i redditi sono più alti e quindi potrebbero consumare di più. In più aggiungo, prima di presentarvi l'ospite e dare lui la parola fino alla fine, che c'è anche un meccanismo per il quale il surplus tedesco va sempre più su, grazie alle strutture dell'euro, perché di solito i paesi, quando hanno avanzi di parte corrente troppo elevate, la Cina l'ha avuto per tanti anni, è arrivato quasi al 10% di PIL ogni anno, poi cos'è successo? È stata costretta a rivalutare la moneta, e a quel punto la moneta ti spinge a dire: no, un momento, aspetta un po', io non posso continuare così, perché altrimenti perdo competitività. Siccome nell'euro, sui cambi dell'euro, l'euro incorpora una parte più debole di cambio, purtroppo rappresentata da noi, dai nostri guai, ecco che la Germania è spinta ulteriormente a stare su. Per tutte queste ragioni bisognerà verificare se quel 6% violato per tanti anni non è un guaio fatto a noi. Ecco, Allora, di questo parliamo oggi, si continuerà a parlare anche in Focus Economia dopo i nostri minuti con Sebastiano Barisoni, perché è un evento molto importante, come potrete capire, bisogna evitare di ridurla a insulti contro i cattivi tedeschi, ma bisogna anche pretendere che quando le regole non sono rispettate da loro, vengano rispettate. Allora, ho invitato a parlarne oggi una voce, scrive sul mio stesso giornale, sul Messaggero, e insieme abbiamo sollevato e animato il confronto su questo mentre la stampa italiana taceva, e lui è un critico molto più duro di me della Germania. Proprio per questo lo conoscete, si chiama Giulio Sapelli, insegna storia economica alla Statale di Milano. Ho scelto di farlo venire qua, di ringraziarlo per essere con noi e di chiedergli immediatamente un commento. Come la pensi su questa storia, professor Sapelli, dell'inflazione tedesca? Grazie Oscar, hai detto, devo dire, come sempre, con grande chiarezza e lucidità, tutte le cose fondamentali tu. La penso in questo modo, mi pongo il problema perché il problema viene sollevato solo ora, solo adesso. Naturalmente noi sappiamo che l'economia in deficit con l'estero registrano di norma sempre minori tassi di crescita, vanificando tutti gli sforzi che possono venire fatti sul piano finanziario per superare lo squilibrio del deficit del commercio, per causa, ecco, problema dell'euro, sia della rigidità monetaria, sia per la politica di deflazione, ossia di scarsa liquidità all'economia reale che la Germania ha posto in essere in tutta Europa. Ricordiamo l'attacco a Draghi continuo, il fatto inaudito che la Corte Suprema Europea ha citato addirittura la BCE, no, in un processo fantasmagorico. La Corte Suprema Tedesca ha citato la Banca Centrale Europea. Ecco, quindi c'è questo fatto fondamentale che lo squilibrio della bilancia commerciale in una situazione come quella a cui noi stiamo andando incontro con l'euro, che ci impone una rigidità monetaria, fa sì che se un paese cresce troppo senza che si allarghino i mercati interni, le conseguenze possono essere devastanti per la crescita europea e possono riflettersi, come ricordava Keynes in tempi non sospetti, periodo di Bretton Woods, possono anche come onde d'urto riflettersi sul commercio mondiale. Tu ricorderai bene, anche alcuni noti ascoltatori ricorderanno, che Keynes all'epoca pensava di creare al posto del dollaro dominante una moneta che doveva essere la moneta che si chiamava Bancor, che era una sorta di mediazione tra il dollaro, la sterlina, no, e il marco. Il problema è che appunto stranamente la Commissione Europea guarda un po' te, si accorge di due cose. Uno, che bisogna fare una politica economica europea, che questo, voglio dire, è balzano, perché hanno sempre detto che bisogna fare una politica liberista, mentre invece, come sappiamo bene, come tu dici benissimo nella tua trasmissione, ci sono regole europee che a me ricordano l'Unione Sovietica, no? Perché fissano dell'iperregolazione, per cui questo liberismo non esiste. Ma come mai adesso? Adesso perché... Perché? Perché gli Stati Uniti hanno attaccato con una forza inaudita qualche giorno fa la Germania e la sua politica economica. Ma perché? Allora, ma no, però una cosa, perché secondo te francesi, cioè che gli italiani non se la sentano, i governi italiani, capisco, ma dai francesi, anche da Hollande prima, sì, di perdere colpi, mi aspettavo che lo facesse, no, perché no? Ma perché no? Perché vedi, innanzitutto con Hollande, se pensiamo a Mitterrand, siamo scesi dalle acque alle galline, no? Cioè, voglio dire, diciamo, Hollande, povero uomo, si muove come se avesse una mentalità imperiale, come hanno sempre avuto i francesi, ma purtroppo ha una mentalità provinciale, l'ha dimostrato il comportamento nella guerra di Libia, dove ha cominciato senza neanche fare i conti col fatto che poi la Francia poteva mandare la portaerei Clemenceau soltanto una settimana davanti alle coste libiche, poi ha dovuto ritirarsi e chiedere l'intervento degli americani, cosa che forse era meglio che non si fosse fatta. Se avessimo ancora Gheddafi, tutto il mondo e tutta l'Africa sarebbe molto più tranquilla di quanto non era un tempo. Aspetta, no, ti interrompo qua, perché prima che gli ascoltatori dicano come se non stagi Gheddafi, no, guardate la Libia che cosa è diventata dopo, non essendoci stato un piano preordinato intelligente per l'intervento, è in mano a guerra di milizie, non esporta più niente, perché come avete visto, avrete letto che cosa è stato costretto a dire, quindi non accumula più ricchezza. ed è diventato un rotten state, uno stato fallito, pieno di cose che sono le stesse che poi sono in azione in Siria, di qua di là, tutto Nord Africa, nel Niger e così via. La versione di Oscar. Eccoci tornati, 16:48, 13 secondi. Giulio Sapelli ci stava spiegando del perché questa regola europea violata da anni. In realtà l'Europa la scopre improvvisamente solo perché è l'America ad attaccare. Sì, perché sono gli Stati Uniti che sono preoccupatissimi che la politica di deflazione, cioè di distruzione del mercato interno, di abbassamento della domanda, di distruzione dell'industria manifatturiera, abbia delle conseguenze devastanti anche sulle esportazioni nordamericane. Questo vale per l'Italia, diciamo, gli americani seguono l'Italia con attenzione, ci fanno degli investimenti anche molto buoni, molto seri, come quello di GE, di General Electric recentemente, però sono preoccupati, ma insomma è una piattaforma militare. Poi soprattutto sono preoccupati dell'inerzia franco-spagnola, insomma, soprattutto dell'inerzia francese. Hai ragione, però, se non prendono iniziativa diplomatica l'altro, come ha ricordato per primo Mesi or sono, quel grande maestro del diritto e il grande padre della patria, secondo me l'ultimo dei grandi, il professor Giuseppe Guarino, bene, diamo vita ad una diplomazia a geometria variabile per fare in modo che si rinegozi tutto di Maastricht. Non dimentichiamo che, come ha sempre dimostrato Guarino, il trattato di Maastricht con Delors all'inizio non aveva tutta questa fissazione del debito, parlava di crescita, parlava di equilibrio, e sono state poi le varie commissioni che da ordinatrici si sono trasformate in regolatrici e quindi hanno tradito lo stesso trattato di Maastricht sotto la pesante influenza tedesca, che non voleva affatto che la BCE facesse una politica diversa da quella della Bundesbank. È stato il nazionalismo tedesco, descritto da tanti libri, che è venuto fuori. Naturalmente gli americani hanno imposto, come ti ricorderai, anche i nostri ascoltatori, dopo 3 mesi che Timothy Geithner, che era allora il capo del Dipartimento di Stato nordamericano, è stato 3 mesi in Europa per imporre Mario Draghi a presidente della BCE perché controbilanciasse il peso tedesco. I tedeschi si sono dimessi, hanno fatto tutte queste cose che tu ricordi sempre molto spesso, e Draghi, da buon Florentin, come chiamano i francesi, da buon italico astuto, cerca di aggirare lo statuto della BCE, che invece andrebbe profondamente cambiato. Bene, e ci va una politica internazionale. Io ho detto. Ti posso chiedere, di fronte alle cose che tu poni, e lo scrivi da anni, Sapelli, per chi non lo sapesse, guardate i suoi ultimi libri in questi anni, perché sono una sferzata alle classi dirigenti bancofinanziarie di tutto l'Occidente, europeo e anche italiano. Ma detto questo, secondo te è credibile immaginare che, per come sta messa l'Italia, l'Europa, Spagna adesso, noi andiamo a una rinegoziazione dei criteri di massima e dei trattati? Sì, è credibile solo se facciamo una politica imperiale, cioè dobbiamo convincere gli americani che l'Europa diventa grande solo se si realizza l'idea di De Gaulle dell'Europa dall'Atlantico agli Urali. La Russia ci deve aiutare, perché se l'Europa non incorpora in sé la Russia, sarà una terra come quella descritta da Tacito, dove passavano i tedeschi, non crescerà più l'erba. I russi, diciamo che l'Europa può ridiventare una potenza globale solo che se la Russia, se gli americani tolgono questi maledetti missili che hanno in Polonia puntati contro la Russia, se la Russia sceglie invece che la Cina, come pericolosamente orientata a fare, sceglie di essere quello che è storicamente. Non dimentichiamo che l'antica Russia è nata a Kiev in Ucraina, Se ne dica. Ecco, quindi, Novgorod. Ma senti, ma dovessi dire ai nostri ascoltatori, chi vedi nella classe dirigente e politica italiana che segue davvero e attua questo programma? Perché la sinistra mi sembra europeista filo Bruxelles, la destra non ne voglio parlare, dimmi tu. Sì, questa è la vera domanda, la domanda che si poneva Machiavelli, chi potrà fare l'Italia? Esatto. È quella di Dante, no? Dante poi era molto più realista, pensava ad un imperatore, pensava addirittura che dovesse… Cioè hai voglia di scrivere in teoria come deve funzionare il perfetto principe, ci deve essere il principe. Devo dire che credo però in questo in questo sono abbastanza anarchico nella concezione della storia, dato che non credo alla storia come complotto. Certo. Credo anche alle occasioni storiche che vengono fuori dalla battaglia politica. Può anche darsi che nella battaglia politica, se apriamo, quindi dobbiamo avere anche la forza delle nostre idee, Oscar, devo dire. Per fortuna abbiamo un giornale libero che ci ospita, finalmente io posso scrivere quello che voglio. Certamente con... no, diciamolo, perché ragazzi in ascolto, guardate che a non poter scrivere che c'era una regola europea violata perché i grandi giornali italiani non l'hanno scritto, era esattamente per la ragione per cui il professor Sapelli lo sta dicendo, perché le proprietà, meglio non far incazzare chi gli dove va. No, per questo noi adesso, poi dopo siamo amici di tutti, siamo gente di pace e non di guerra. Certo. Però dobbiamo avere forza nelle idee. Io vedo che ci sono tanti giovani e tanti vecchi saggi. Questa roba del nuovismo e della rottamazione a me non è mai piaciuta, appunto, professor Guarino, malato, acciaccato, eccetera, ma delle idee più fresche, più giovani di un quarantenne. Io spero che qualche nuova elite, perché io sono un elitista, credo nelle minoranze, sono le minoranze che cambiano la storia, spero che qualche elite venga fuori, però bisogna dare una battaglia culturale, perché io penso che Ma nell'ultimo minuto, siccome è evidente che nell'opinione pubblica in questi ultimi due anni in Italia è cresciuta una grande ondata contraria all'euro, sì, che però è pronta alla demagogia a dire facciamo quello, guai, la pensi su questo? Io penso che bisogna avere queste proposte serie, come con in tutta umiltà penso abbiamo fatto noi in questi ultimi mesi, io in questi ultimi anni, per impedire che la demagogia prevalga e per esempio si affermi l'odio antitedesco. Non dimentichiamo che esatto. La Germania è la patria di Goethe, esatto. non scherziamo, non facciamo noi come fanno loro, non facciamo i nazionalisti, facciamo i cosmopoliti e quelli che pensano al mondo, ecco. Però bisogna alzare la voce con umiltà, con serietà, con fermezza. Io spero che qualcuno venga fuori, se no sarà il deserto dei tartari. Sì, e soprattutto spero che molti tedeschi in ascolto, che siamo amici, molti amici, capiscano che il no ai mercantilismi nazionalisti è l'unica strada per l'Europa. Difendere i mercantilismi nazionalisti affonda l'Europa come affonda chi la pratica. Questa è l'esperienza della storia. Grazie al professor Sapelli. Continuate ad ascoltare ancora su questo tema Sebastiano Barisoni, Focus Economia. Per noi appuntamento a domani.